di fatto è riesploso, però non era mai terminato. C'era solo un effetto sulle statistiche dovuta alla crisi di questi anni. È un dramma, è una tragedia, e sono stragi sulle quali bisogna intervenire. Ovviamente anche con azioni di lotta, come abbiamo fatto in Emilia-Romagna il 24 aprile scorso, ma non è che serva solo fare uno sciopero all'indomani di una tragedia. Occorre un intervento legislativo e occorre riprendere dentro la contrattazione i temi della sicurezza, dell'ambiente e soprattutto degli appalti. Infatti stamattina Maurizio Landini a Bologna ha detto alcune cose che hai detto anche tu adesso, cioè c'è anche tutto un tema di incidenti non denunciati perché c'è chi ha lavori precari o chi ha paura. Certamente, oggi se non è un incidente mortale, allora viene fuori anche se è nell'appalto della piccola azienda, molti infortuni vengono anche nascosti, molti rischi vengono nascosti. È chiaro che bisogna riportare gli appalti non solo dentro un quadro di protocollo che ce ne sono anche in regione, ma in realtà bisogna dare il potere, diciamo, ai lavoratori, quindi all'RSU, di controllare, di sapere quali sono le aziende di palco in tutti i settori, a partire da quelli metalmeccanici. La crisi ha, come dire, contratto i dispositivi di sicurezza, gli investimenti sul tema della sicurezza? Ma sì, è un declino generale. È chiaro che quando c'è il precariato, quando uno ha paura di perdere il posto di lavoro, non si impunta per avere maggior sicurezza, magari tace, cerca di andare avanti, e poi succede quello che è successo nei cantieri, oppure a Padova, oppure qualche giorno prima a Monfalcone. Tu prima citavi anche la questione legislativa. Le leggi che ci sono non sono sufficienti? Ma assolutamente no, è uno scandalo. Io ho seguito il cantiere di Muggiano fino a 2 anni fa, così come quello di Monfalcone, per quanto riguarda Fincantieri. Abbiamo chiesto incontri alle commissioni parlamentari del Senato per quanto riguarda l'industria, all'allora ministro dell'Interno Alfano. Abbiamo consegnato dei dossier. Fincantieri, ad esempio, è un'azienda a partecipazione pubblica, e se ne fregano. Poi magari c'è il comunicato di pentimento, di solidarietà, quando c'è un morto, così come lo sciopero non è che risolve il problema. Insomma, segnala una situazione, ma non ci si può fermare a fare sciopero semplicemente ogni volta che c'è un morto. Ci sarebbe sempre, purtroppo, in sciopero, però il problema è che va fatta un'analisi seria, insomma. Non è solo questione di prevenzione, ma è anche questione di attenzione nell'avere più sicurezza, a fare in modo che se tu denunci qualcosa non rischi di essere lasciata a casa, come è successo, per esempio, recentemente a un nostro lavoratore delegato.